toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, vedi il primo messaggio che arriva: oggi tutti a casa ad ascoltare Milan e Manera. Bene, si parte bene con questa settimana, di Uno, nessuno, 100 Milan, insieme a voi, cari ascoltatori. Che dire, indovinate un po' oggi in queste due ore di che cosa parleremo. Non lo so, secondo voi di che cosa parleremo? Facciamo una sfida Lucchetti subito all'inizio della trasmissione, alle 9:09, insieme a lei, insieme a Lorenzo Nespoli, insieme all'Alpino, insieme a Elisabetta Fusconi, Manera. Altra sfida, indovinate Manera dov'è oggi? Secondo voi è a casa, cioè come me ha preso la metropolitana? Io ho preso la metropolitana vuota, qualche mascherina qua e là, non di carnevale, qualcuno che si improvvisa espertone di coronavirus, li conoscete anche voi? Cioè, ieri al parco ero, ci sono espertissimi di coronavirus, più sparsi del virus in giro, tutti che sanno tutto, io niente so. Lo dico, ecco, io niente so del coronavirus, non sono medico, non sono virologo, non ho studiato niente di tutto questo, faccio come dire oggi, e questo è il ruolo secondo me che dovrebbero fare i giornalisti in questi casi, il reggimicrofono, faccio il reggimicrofono e daremo voce prima al professor Burioni, poi alla professoressa Colizza, poi dalle 10 avete sentito ci sarà Nicoletta Carbone con altri esperti di virologi per cercare di rispondere a tutte le vostre domande. Ecco, faccio il reggimicrofono e sentiamo invece il parere di chi è più esperto sicuramente di me, ma anche credo dei tanti sedicenti esperti che ho incontrato ieri e che avevano la verità in tasca. Allora, che dire, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, 349 238 6666, avrete tante domande, tanti dubbi da chiarire. Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Oggi più che mai, entusiasmo. Oh, io non sono esperto, quindi no. Però due cose le posso dire. A, la comunicazione. La comunicazione è importante. Allora, ieri io vedevo un po' TV, scanalavo, eccetera, come tutti guardavo le varie trasmissioni. Cioè, ragazzi, l'ingresso di Giletti è stato spettacolare. Cioè... giustamente Giletti ha detto dobbiamo informare, la scienza, eccetera. Primo ospite. Bisogna essere trasparenti, lo diciamo soprattutto, lo diremo alla politica, a chi ci governa, perché le informazioni vanno date, ma bisogna usare anche i dati scientifici. Chi fa il nostro mestiere deve cercare di informare. Giusto. In modo serio. Giusto. Matteo Salvini, segretario della Lega, è in collegamento con noi. Lo saluto, buonasera. Capito, ma... buonasera, la segretario. Scienza. I dati, Matteo Salvini, allora, primo ospite, vabbè, ma con tutto il rispetto, cioè nel senso non è che la politica debba stare, però partire la scienza, i dati, l'informazione, la precisione, Matteo Salvini, che poteva essere anche Zingaretti, buongiorno, Berlusconi, Meloni, cioè voglio dire, come dire, vabbè, la scienza, Matteo Salvini, buonasera. No, ma dopo hanno dato spazio anche agli scienziati. A proposito di comunicazione, voglio dire, poi arriviamo alla questione dei supermercati, perché lì mi devo trattenere molto, ma alla questione della comunicazione. Invito anche il presidente della Regione Lombardia, era ospite della Luce Annunziata, il presidente Fontana. Cioè, io non lo so se finirà come a Wuhan, ma anche solo... dal punto di vista della comunicazione, evocare Milano come Wuhan, e dopo la gente si fa prendere dal panico, perché non tutti riescono a valutare. E allora forse questa frase su Milano, Wuhan, accostate, non è stata felicissima. E nella fase 2 è chiaro che si potrebbero assumere delle iniziative ancora più drastiche, ancora più rigorose, che in Cina per esempio sono state assunte nella città di Wuhan e che hanno sicuramente portato a dei risultati di grandissima riduzione della Governatore, lei mi parla di una Milano come Wuhan? Questa era notizia? Questa è situazione... parte delle sue immaginazioni? No, io le sto dicendo, se la situazione si è spaventata anche l'annunziata al punto ce ne vuole a spaventare l'annunziata, cioè mettere insieme Milano e Wuhan, cioè voglio dire la comunicazione è importante e poi la gente cosa fa? Va nei supermercati e svuota tutto. Io su questo, guardate, mi devo trattenere, ci ho pensato 500 volte, perché a vedere le immagini dei supermercati svuotati, manco fosse la pre-apocalisse o la carestia imminente o la guerra del 15-18, non c'erano neanche i supermercati nel 15-18, io sinceramente... E molta gente mi ha scritto anche, vabbè, ma che male hanno fatto queste persone? Che male hanno fatto? Intanto hanno mostrato un grande senso della collettività e della coesione sociale, cioè stiano bene io e i miei cari e crepino tutti gli altri, senza viveri, senza acqua, senza pasta, eccetera. Questo è il primo istinto. Secondo, ragazzi, vi hanno detto di non frequentare luoghi molto affollati, siete andati a starnutirvi e tossirvi uno come uno sopra l'altro in coda coi carrelli. Ecco, questo seconda considerazione che mi viene da fare. Adesso il presidente Fontana proprio poco fa ha detto è inutile andare a fare la spesa. Ho capito, ma questo è un po' il danno è stato fatto evidentemente con un po' di psicosi che è partita. Ecco, quello è un altro bel virus, il virus della psicosi. Virus che Roberto Burioni non studia, ma torna con noi Roberto Burioni, buongiorno. Buongiorno. Io preciso che non sono andato a fare la spesa. Sì, neanche io. Io ieri sono... Un po' me ne intendo. Ecco. Sì. Pensi che io ho scritto questo, non sono andato a fare la spesa, ieri mi sento più intelligente degli altri, figurarsi, giustamente. Beh, mi è andato dell'arrogante, però, del presuntuoso, del radical chic, del... Quando ho visto, devo essere sincero, però io una bambina di 9 anni che frequenta le scuole elementari, sì, e io quando ho visto sabato mattina l'evolversi della questione, io ho detto a mia moglie, nostra figlia a scuola non ci va, perché poi non è che bisogna fare i faciloni, non sta succedendo niente, certo, bisogna mantenere la calma, capire che alcune cose hanno senso, altre il saccheggio dei supermercati no, perché ovviamente saranno riforniti. E soprattutto si sono ammassati nei supermercati, belli in coda lì a starnutirsi addosso. Ecco. Forse stanno più tranquilli, vediamo, speriamo che siano stati attenti. Adesso che hanno la dispensa piena, forse si sentono più tranquilli. Poi a un certo punto cominceranno a scadere gli alimenti, mangeranno tutti, ingrasseranno un po'. Magari, ingrasseremo tutti. Allora, no, professor Burioni, ecco, vediamo a capire che cosa serve e cosa no. La scuola, lei ha già detto, la chiusura delle scuole serve. Certo. Certo. Anche se ho sentito dire da lei stesso che i bambini, è vero, si ammalano in una situazione pare più leve. Noi dobbiamo ricordare che durante un'epidemia e della diffusione delle malattie infettive qualcosa è controintuitivo, ha un aspetto negativo che non è immediatamente apparente. In questa nuova epidemia, con questo nuovo virus, sembra effettivamente che i bambini o comunque le persone sotto i 13 anni e vadano incontro alla malattia con sintomi molto più lievi. Questa è una cosa molto positiva, perché possiamo stare più tranquilli per la salute dei nostri figli. Ma c'è un elemento che invece è negativo. Un bambino asintomatico con pochi sintomi va a scuola e infetta tutti gli altri suoi amichetti, perché all'asilo e alla scuola elementare i bambini hanno una vita molto più promiscua di quello che noi abbiamo in un ufficio, giocano insieme, si abbracciano e via dicendo. E allora i bambini potrebbero costituire un pericolo non per loro stessi, ma per gli altri. Sì. Immaginiamo il virus che arriva in una scuola, contagia in maniera sostanzialmente innocua tutti i bambini, ma poi questi bambini tornano a casa. Esatto. Questo potrebbe essere un veicolo di diffusione dell'infezione, così come anche per esempio Le partite, i concerti, i luoghi promiscui. Ho sentito per esempio la direttrice del piccolo Ruth Chamà dire no, ma i teatri sono fonte di socialità, da che mondo è mondo, però lei ci sta dicendo, però dobbiamo ricordare che tutto quello che è fonte di socialità è fonte di contagio. Il contagio umano si basa sulla, il contagio umano dei virus si basa sulla nostra socialità, perché certi virus, faccio un esempio, il morbillo, sono potuti andare avanti nella popolazione umana solo quando le aggregazioni, quindi le città e quindi la socialità, hanno raggiunto 500.000 persone. Per cui i virus lo sanno che noi siamo persone sociali, sì, che amano stare insieme. E ne approfitto. Quindi quello è un momento in cui però dobbiamo... quanto potrà durare, professore? Perché molti dicono una settimana. È vero che la situazione va controllata giorno per giorno, minuto per minuto. No, non è che si può dire durerà tot settimane. Penso che sia importante dire ai radioascoltatori una cosa fondamentale. Le persone che malauguratamente si infettano oggi si ammalano tra circa 7 giorni. Quindi qualunque cosa facciamo oggi avrà un effetto tra 7 giorni, un effetto che noi vedremo tra 7 giorni. Per cui se domani o se dopodomani i casi dovessero aumentare, non facciamoci prendere dal panico, perché in realtà è normale. Il risultato delle infezioni nei giorni scorsi, quando le precauzioni non erano state prese. Quello che noi dovremo vedere tra qualche giorno, sperando, se i focolai sono contenuti, come stiamo facendo di tutto per contenere, e allora noi cominceremo a vedere questi casi che diminuiscono. Speriamo che questo avvenga il prima possibile. Però cosa bisognerebbe fare? Cioè, secondo lei andavano chiusi anche, non so, gli uffici pubblici, i mezzi pubblici? Oggi sono venuti in metropolitana, vuota peraltro. Noi dobbiamo sempre trovare un equilibrio in queste misure. Per cui dobbiamo graduare il disagio che ogni misura causa e il pericolo di contagio che ognuna di queste misure lascia aperto se invece non si chiude. Ecco, la metropolitana è qualcosa di vitale per il trasporto, per il lavoro delle persone e d'altra parte si può stare attenti, non tossire in faccia alle persone, lavarsi le mani immediatamente. Io lo facevo sempre anche prima, anch'io uso molti mezzi pubblici perché evito di inquinare, però quando vado in metropolitana prendo poi un gel disinfettante ma non basta, ecco il sapone basta, perché io ad esempio basta il sapone? Cioè io anch'io arrivato in radio, prima cosa sono andato in bagno e Il sapone, va benissimo il sapone, lavarsi le mani per una ventina di secondi col sapone e l'acqua va benissimo, ma se non si ha il gel disinfettante va bene anche l'alcol denaturato, quello che se è finito il gel disinfettante non si trova, pure non comprate disinfettante a 100 euro. Prendete un po' di alcol e va benissimo. Allora però professor Burioni rimanga qui con noi, perché io le devo presentare Vittoria Colizza, che dirige il laboratorio Epidemics in Complex Environments. Siamo all'Istituto Francese della Sanità e la Ricerca Medica. Buongiorno professoressa Colizza, eccoci qua. Buongiorno. Allora, il suo team, tra l'altro, in Francia studia le epidemie in ambienti complessi usando modelli matematici per capire anche la possibile diffusione. Mi ha colpito, Colizza, perché proprio oggi sul Corriere della Sera ho letto che in Lombardia, siccome non si riesce a capire chi sia questo paziente zero, stanno ingaggiando dei matematici, stanno studiando degli algoritmi per capirne di più. Allora lei forse ci può aiutare, visto che questo proprio fate in Francia, sulla diffusione del virus e sul paziente zero, cosa ci può dire? Ma sul paziente zero credo si possa dire relativamente poco al momento, per questo infatti non si riesce a trovare. Noi abbiamo fatto delle stime che ci indicano che su circa 10 casi importati in un paese da zone affette dal virus, circa 6 in media non sono individuati. Quindi sono dei numeri enormi che possono tranquillamente sfuggire alla sorveglianza a causa del fatto che alcuni di questi casi possono essere asintomatici oppure avere sintomi lievi e quindi non necessariamente cercare un medico. Questi casi allo stesso tempo però possono anche trasmettere, ed è esattamente quello che è successo con il paziente chiamato numero 1 in Italia, il 38enne, che sarà stato infettato da questo paziente zero che non si riesce ancora a trovare, e quindi il suo storico infezione è diventato ancora più difficile da diagnosticare. Che succederà ora di questo virus secondo i vostri modelli matematici di diffusione, anche allargando l'orizzonte all'Italia? Allora, noi abbiamo studiato, quindi qualche settimana fa avevamo studiato il rischio di introduzione in Europa, infatti avevamo identificato 4 paesi a più alto rischio, che erano Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che infatti poi sono stati i primi paesi che hanno confermato casi. Abbiamo anche guardato il rischio di introduzione in Africa e l'abbiamo messo in relazione con le loro capacità funzionali di risposta e di reazione a una epidemia, e questo ovviamente crea delle problematiche ancora più forti, sì, laddove i sistemi di sanitari sono ovviamente ben più deboli rispetto a quello che noi abbiamo in Italia. Il prossimo passo, su cui in realtà stiamo già lavorando da settimane, è proprio sviluppare modelli di propagazione, assumendo, quindi facendo l'ipotesi che l'epidemia si sia ormai diffusa in comunità. Lo stiamo facendo nello specifico noi per la Francia, per valutare le misure di intervento, quindi misure di intervento che possono essere raccomandazioni ad esempio di lavoro da casa, oppure anche eventualmente chiusure di scuole. Sì. Queste su periodi più lunghi, perché chiaramente le quarantene che sono state messe in atto al momento in Italia non sono sostenibili sul lungo termine. Certo. Qui è la, professor Buglione, la matematica applicata alla medicina. Sì, è una disciplina affascinante, bellissima. E io ascolto ammirato queste cose di cui potete immaginare non sono espertissimo, sì, perché il mio lavoro poi è quello sul virus vero e proprio, sì, però quello che ha detto la collega è giustissimo. Professore, invece, ecco, vogliamo chiarirla una volta per tutte: c'è stata questa, secondo me, non so se definire, come dire, baruffa, ecco, diciamola così, tra una virologa del Sacco e lei. La virologa del Sacco dice: ma basta, insomma, stiamo esagerando, stiamo trattando un'influenza un po' più grave in una maniera con delle psicosi sbagliate. No, e lei ha reagito, cioè, perché il cittadino di fronte a due scienziati che litigano dice: adesso a chi do ragione? La cosa è molto semplice: la collega, alla quale tra l'altro va tutto il mio affetto per il lavoro che deve sostenere in questi giorni, perché lei è veramente in prima linea e siamo tutti un po' sotto pressione, si è sbagliata, come capita anche a me tante volte, scambiando il numero di morti totali per l'influenza che viene, di morti totali che vengono registrati nelle città campione, con il numero di morti per influenza. Spiego meglio: per capire quanta gente muore di influenza si fa questo lavoro, si prendono 19 città e si contano i morti in quelle città ogni anno, ogni giorno, in media, ogni settimana, cioè quindi quelli che muoiono per tutte le cause. Si va a vedere ogni anno se c'è una mortalità in eccesso, ma sono tutti morti, non i morti per influenza. La collega si è sbagliata e ha scritto questo numero. Ora, purtroppo, questo virus, niente panico, però è più grave dell'influenza. L'influenza in tutta una stagione, come polmoniti virali, fa circa 200 morti, ecco, con l'influenza normale. Sì. È un virus contro il quale abbiamo già un'immunità, quindi siamo già immuni in parte perché abbiamo visto quelli degli anni scorsi. Ed è un virus che non ha la tendenza a penetrare in profondità nel nostro apparato respiratorio, si ferma solitamente ai bronchi, quindi sì, l'evento peggiore è una broncopolmonite che si cura con gli antibiotici, salvo nelle persone che stanno molto male, ma sono molto anziane, allora è un guaio. Però per una persona in buona salute l'influenza è una infezione che non richiede neanche l'intervento del medico. Questa no, in un certo numero dei casi. Ora, nella grandissima parte dei casi, parliamo circa dell'80% dei casi, questa malattia decorre come una brutta influenza, però poi passa da sola. Però poi, purtroppo, c'è un 20% di casi che invece decorre in maniera più grave, richiede l'ospedalizzazione. Ecco, c'è poi circa un 5-6% di casi che al contrario richiede il ricovero in terapia intensiva. Sì, è vero. Ora, è vero. Ecco, però dobbiamo capire che il 5% di una malattia che va in malattia intensiva, lasciamo stare i morti, potrebbe portare alla paralisi il nostro sistema sanitario, perché noi non abbiamo 100.000 posti in terapia intensiva. E il 5% è facile arrivarci, cioè questo virus ha la potenzialità, se non lo fermiamo, di diffondersi quanto l'influenza. Le do un numero: l'influenza fino ad oggi ha fatto circa 6-7 milioni di casi. Ora immaginiamo cosa il 5% di 6 milioni, e lei capisce che arriviamo a numeri che quantomeno hanno la capacità di andare 300.000, sono 300.000. Non abbiamo 300.000 posti in terapia intensiva, quindi significherebbe saturare gli ospedali, significherebbe che la gente comincerebbe anche a morire infatti. Nessun panico, però la situazione è seria. È colpito quello che Vittoria Colizza mi ha detto, vorrei tornare da lei, la ricercatrice Colizza, per la questione della diffusione in Africa. Ci sono paesi lì effettivamente la gestione sanitaria non è purtroppo all'altezza della gestione sanitaria che abbiamo qui in Europa. Qual è il vulnus di quello che può succedere in Africa, secondo voi? Senz'altro una propagazione, diciamo una situazione un pochino da incubo, cioè una propagazione che possa avvenire anche lì magari non identificata, con diffusione in comunità, e a quel punto ritrovarsi con un numero molto elevato di persone che affluiscono verso il sistema sanitario. Stiamo parlando di paesi i cui, diciamo, cosiddetti piani pre-pandemici datano del 2005-2006, quindi addirittura prima della pandemia influenzale del 2009. Alcuni di questi paesi hanno una certa preparazione perché hanno vissuto o si sono preparati rispetto all'epidemia di Ebola. D'altra parte i controlli, diciamo le misure di controllo di infezione per questo coronavirus, essendo un virus respiratorio, sono ovviamente diverse da quelle utilizzate per Ebola. Quindi c'è tutto un aspetto non soltanto di risorse ma anche di training e quindi di formazione del personale che manca. Professor Burioni, due ultime domande flash, gli ascoltatori ne fanno tante, insomma. Primo, sì. Le mascherine, ma servono o no? Perché un'altra cosa si è detto, io ho capito che servono se sei malato per non contagiare gli altri, e servono ai medici, eccetera. Ma servono o no? Perché Le vedo in giro e il 99% di quelle che vedo sono peraltro indossate male. Quindi, è un po' come la storia dei supermercati, mi sa. Esattamente. No, servono quando si sta male, servono e sono indispensabili, però la cosa più importante è incredibilmente lavarsi le mani ed evitare per quanto possibile i luoghi affollati. Mi permetta di dare un elemento, perché affollato è un termine molto vago. Questo virus è contagioso ma non è contagiosissimo come quello del morbillo, per cui il pericolo c'è quando si è a meno di un metro da una persona. Se stiamo un pochino lontani non c'è pericolo, quindi è un momento in cui so che è brutto, perché viene istintivo quando si incontra una persona, un amico, abbracciare, così. La nostra socialità è fatta di fisicità ed è bello che sia così. Purtroppo, di nuovo, questi maledetti virus lo sanno e sfruttano proprio queste nostre, chiamiamole così, debolezze, certo, che in questo momento dobbiamo limitare. E l'ultima questione, se dovesse piovere, perché come il clima incide sul virus, o se dovesse arrivare caldo, insomma, ci aiuta a capire le prospettive. Dunque, noi ci sono tante cose di questo virus che non sappiamo, ma per esempio non sappiamo neanche se una persona guarita può reinfettarsi, per dire. Perché sono cose che impareremo con il tempo. Una delle cose molto importanti che non sappiamo è se la diffusione di questo virus verrà alterata dal cambiare delle condizioni meteorologiche. Questo avviene per diversi virus. L'influenza, per motivi che non sappiamo, circola sostanzialmente dagli inizi di gennaio fino alla fine di febbraio, e marzo, e poi basta. Non sappiamo però perché, è così, e la scienza non sa spiegare perché questo avvenga in questi due mesi. La stessa cosa potrebbe avvenire per questo virus, potrebbe essere che con l'arrivo della bella stagione la trasmissione si attenui, e però prima di tutto dubito che si azzeri, secondo sarebbe un colpo di fortuna, ma noi non possiamo contare sui colpi di fortuna, noi dobbiamo in questo momento affrontare questo focolaio di contagio e fare veramente di tutto per fermarlo, perché tanto più va avanti, tanto più è difficile. Che i sacrifici che ci vengono chiesti oggi, che sono sacrifici grossi, varranno domani. Se non fatti, ne richiederebbero molto di molto più grandi dopo. Guardiamo cosa è successo con la Cina. Mettere in quarantena chi veniva dalla Cina sarebbe stato semplice. Questo lei lo diceva. Però non è il momento delle polemiche. Verranno fatte. Nel salutarvi e ringraziarvi, giro a Vittoria Corizza questo messaggio, un ascoltatore che ci dice: guardate che ad Addis Abeba, in Etiopia, arrivano in volo 1500 cinesi al giorno che poi si disperdono per tutta l'Africa. C'è una grandissima quantità di lavoratori cinesi in Africa. Ecco, e la maggior parte di questi, ci dice, arrivano da Wuhan. Questo non lo so, insomma, in teoria da Wuhan si esce controllati, però Vittoria Colizza, questo è un po' il timore, no? Per quel che riguarda l'Africa, mi sembra di capire. Noi abbiamo preso esattamente in conto tutti questi dati. Ora, da Wuhan non possono più uscire, esatto, perché l'aeroporto è stato chiuso il 23 gennaio, però chiaramente possono arrivare da altri aeroporti delle altre province. Ormai tutte le province in Cina sono infette, quindi i casi possono arrivare da lì. E alcune compagnie aeree hanno fermato i voli, non Ethiopian Airlines, che infatti è quella che gestisce circa la metà di tutto il flusso aereo dalla Cina verso l'Africa. E Addis Abeba funziona come un hub, quindi di connessione, per cui in realtà molti di questi passeggeri non si fermano lì, tant'è vero che noi non finiamo l'Etiopia, esatto, a essere alto rischio, ma vanno in giro poi per gli altri paesi europei, africani. Grazie Vittoria Colizza, che dirige il laboratorio dell'Istituto Francese della Sanità e della Ricerca Medica, e grazie al professor Roberto Burioni. Ma non è che ci dimentichiamo la vicenda. Ricordo, poi alle 10 ci raggiungerà Nicoletta Carbone, e insieme agli esperti virologi risponderemo fino alle 11 a tutte le vostre domande. È un po' così la programmazione in questi giorni, l'avete visto anche in TV, la sentirete anche in radio. Molti dicono: ah, ma basta, ma insomma, sono passati 2 giorni, mi sembra giusto informare, la situazione sicuramente lo richiede. Ci scrive un ascoltatore: gli uffici pubblici sono già chiusi, vedi l'INPS a Legnano. Ecco, non lo so, evidentemente questo ascoltatore si è recato all'INPS di Legnano e ha trovato chiuso. Qui anche c'è un po' la situazione per cui ognuno fa come gli pare. Abbiamo sentito che gli uffici pubblici sono aperti, per esempio l'INPS di Legnano è chiusa. Non lo so, saranno anche disposizioni che non attengono alla disposizione generale, ma disposizioni particolari. In ogni caso, andiamo un attimo in pubblicità. Manera non lo vedo aggirarsi, è barricato, mi sa, ma sarà con noi tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Dov'è? Figurarsi. Buongiorno anche a te. Sì, vabbè. Vedi che è un po' di tosse, ho preferito non venire, magari rischio di infettare qualcuno. Ecco. Sei veramente vergognoso. No, fino a un minuto fa ti ho sentito, eri perfetto. Sì, ma io seguo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono di sviluppare il telelavoro soprattutto in questi momenti, e io sono ligio. Sì. Tra l'altro hai notato che tu sei un precursore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché già prima, vabbè. Adesso anche il professor Burioni diceva di tenere le mani ben pulite, e tu hai visto che la settimana scorsa, vero, in studio avevo la mia soluzione. Sì. Quanto l'hai pagata? 3,50 euro, mi sembra, più o meno. 4 confezioni a 100 euro, questa adesso è la denuncia. Ho visto, sì, che c'è stata questa impennata dei prezzi della mucchina. Sì. Allora, forse devo vale dire, la pena ammalarsi. Caro Leonardo, ci stanno arrivando tantissime domande alle quali noi non sappiamo rispondere, nel senso che ribadisco, dalle 10 con Nicoletta Carbone ci saranno dei medici qui che entreranno nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 e risponderanno alle vostre domande, tipo: quanto vive il virus fuori dal corpo umano? Ecco, però a questa domanda so rispondere anch'io. Chi ha fatto il vaccino per l'influenza corre pericolo? Ma sì, certo, è un altro virus, no? Se no tutti farebbero il vaccino per l'influenza e sarebbero immuni. Invece è un altro virus e la copertura influenzale non c'entra nulla. Però se avete domande, poi alle 10 risponderemo. Tu, Leonardo, come vivi questa situazione barricata? Ma sabato sera ho fatto l'ultimo spettacolo, perché dopo sono stati proibiti, come ben sai. Anche questa settimana avremmo dovuto registrare un programma televisivo e anche quello è stato rinviato. Ho visto che le persone sabato, per esempio, alcune si sono offese con me. Perché? Alla fine, perché volevano fare la foto e io l'ho fatta, ma mantenendo un minimo di distanza. E qualcuno dice, ma non ci posso credere, ma che maleducato. Ma mi dai dell'infetto, mi dai... tra l'altro, guarda, c'è una... allora io ho dovuto dire, ma anch'io magari sono malato e lo faccio per proteggere anche voi, però qualcuno si è offeso. Ascolta un po', quindi... aspettavo Manera la mostra di Tesla ieri. C'è il messaggio dell'ascoltatrice, ma tu avevi un appuntamento alla mostra di Tesla? Con la no, famiglia. Mi sembra di no, meno che abbia dimenticato, sì, ma sì, ricordo. Vabbè. Ero stato invitato, non ricordo. Sì, c'era una famiglia che ti attendeva, tu li volevi senza bambini, ti ricordi che hai detto almeno si presentino senza... Oddio ragazzi, non ha più neanche la memoria, ti abbiamo mandato, vabbè, niente, cara ascoltatrice, il problema è quello, è la memoria, non è altro. Leonardo, guarda che siamo in collegamento con Casal Pusterlengo. C'è Leila che è farmacista, nonché mi dicono anche mamma di due gemelle, sta lavorando, la farmacia è aperta. Leila, buongiorno. Buongiorno, sì, farmacia è semiaperta, nel senso che stiamo servendo a pazienti quasi chiusi, però regolare servizio. Cosa chiedono ovviamente? Mascherine, ammuchina? Cosa vogliono dire i battenti quasi chiusi? Cosa vuol dire esatto? Cioè, battenti quasi chiusi? Come di notte quando senso, c'è... Esatto. Non siamo completamente chiusi, le vetrine sono aperte, abbiamo la porta aperta a 20 centimetri giusto per passare i farmaci e parlare con la gente. Ma ragazzi, ma è giusto così, cioè nel senso che parlate, però mantenete una distanza fisica. E abbiamo le mascherine noi. E avete le mascherine. E le mascherine che sono esaurite per i clienti? Figurarsi. Ma per tutti sono esaurite. Adesso stiamo aspettando notizie per vedere se riusciamo ad averle in settimana. Come riesci a trasferirci l'umore e le sensazioni a Casal Pusterlengo, che è uno dei comuni, insomma, centro? Io non sono per assolutamente mantenere la calma e vedo scene di vita quasi normale, nel senso c'è gente che passeggia col cane, c'è gente che va in macchina, ecco, un po' più di attenzione nel mantenere le distanze. E l'unico vero inconveniente è stato ieri al supermercato, che siamo entrati scaglionati, però è tutto regolare, i supermercati sono aperti, i farmaci li hanno consegnati, quindi cerchiamo di mantenere la calma e la positività, assolutamente. Che mi sembra giusto. Ma poi poco fa anche il professor Bruglioni ci ha detto basta stare a un metro e mezzo di distanza da uno infetto e già il virus non si propaga. Figurarsi tra persone che si presume non siano infette. Però. Certo. E poi ci tengo a precisare che comunque i decessi che ci sono stati purtroppo persone che erano già gravemente malate. Sì, anche l'ultimo, il quarto questa mattina, poco fa, il presidente Fontana ha detto è un signore molto anziano e aveva altre patologie. Questa è una cosa importante. Leonardo, tu come vivresti a Casal Pusterlengo? Io mi chiedevo se a Casal Pusterlengo si nota molta differenza rispetto a... cioè prima c'era una vita sociale, grandi divertimenti, oppure alla fine era così un po' anche prima a Casal Pusterlengo? Ovviamente sono ridotte le attività sociali. Però, ripeto, io sto guardando fuori dalla finestra adesso e c'è gente a piedi normalmente. Oggi ci sarebbe stato mercato, ovviamente non c'è, però per il resto non vedo scene di panico, assolutamente panico, no. Con i figli come si fa? No, me lo dica, perché guarda, è difficile. Cioè, io lo so, guarda, mia figlia doveva partire in gita domani, non va in gita. Sono contenti per le scuole chiuse, però giustamente mi dicono anche a Milano, mi segnalano ci sono degli ipermercati chiusi, forse hanno finito la merce in attesa di rifornimento dopo che ieri la gente li ha saccheggiati. Allora, il difficile è convivere in casa per me con due bambine di 2 anni e mezzo. Accidenti. Che si annoiano. Però vabbè, noi siamo fortunati, abbiamo i miei suoceri che vivono qui all'interno, anche loro della zona rossa, quindi andiamo in giardino da loro e le facciamo sgambare in giardino. Però ecco, la parte dura è la gestione dei bambini. Le persone chiedono, cioè scambiano anche la farmacia per un punto in cui chiedere informazioni per il coronavirus? Poco, vengono a prendere il necessario, quello che serve, anche i farmaci normali ovviamente, cioè chi ha terapie continuative viene ad approvvigionarsi. Bene. Leila, io la ringrazierei, non so Leonardo se hai altre curiosità, ma si vive così in quei comuni dove davvero è blindato. Ecco, io devo dire una cosa, lì sì capisco chi è andato a fare la spesa per fare un po' scorto, beh, certo, eccetera. Ma infatti le scene, io all'inizio ero molto infastidito da coloro che lo hanno fatto a Milano, dove non c'è assolutamente nessun tipo di necessità di questo tipo, invece gente che si è riversata nei supermercati svuotando i bancali. Va bene, Leila, la ringraziamo, in bocca al lupo. Ovviamente non deve essere facile, Leonardo, vivere di colpo, dirti devi vivere un po' blindato adesso, al di là delle ironie che facciamo su di te. Le mie profezie sul barricarsi in casa, hai visto che in modo nell'altro. Sì, nel modo peggiore si sono verificate. Ho detto a mio figlio, perché mio figlio era tutto contento di non andare a scuola, ho detto vedrai che i primi due giorni sarai contento, sì, poi comincerai ad annoiarti. Sì, sì, infatti io mentre sono in onda devo rispondere a mio figlio che mi scrive: posso giocare a Fortnite? Cosa devo dirgli io, Leonardo? Tanto gli dico di sì o gli dico di no. Cosa gli devo dire? Lo fa comunque. Ti fa la domanda solo così. Mi ha già telefonato tre volte, gli ho detto sono in onda, ma posso giocare a Fortnite? Gli interessa solo questo, se può giocare a Fortnite oppure no. Ma tu guardate io cosa devo gestire. Vabbè, già c'ho da gestire Leonardo Manera, adesso anche mio figlio. Vabbè. Solo problemi nella tua vita. Andiamo al traffico, va. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, c'è un'ascoltatrice, ascoltatore che dice: scusate, giovedì dovrei andare a Firenze e visitare gli Uffizi. Ci sono restrizioni per chi parte da Milano? Siamo della provincia di Como. No, quanto allo stato attuale non c'è nessun tipo di restrizione. La provincia di Como non è nei comuni interessati, come dire, dall'epicentro, e quindi non che io sappia assolutamente no, ma anche Sfida Luchetti mi guarda e dice no, non ci sono restrizioni. Non credo, bisogna vedere se rimarranno aperti i musei in Toscana oppure no. Esatto, sì, questo sì, per esempio a Milano sono stati chiusi tutti, ma questa storia dei bar, il bar Jimmy oggi alle 18 chiude? Non sono sceso stamattina al bar Jimmy, ma no, per forza, 18, se, l'ordinanza, cioè, se l'ordinanza è quella, dovrà chiudere alle 18. Accidenti, anche ragazzi, il bar Jimmy. Io se fossi il bar Jimmy terrei aperto, metterei dei grandi spritz e così magari si fa l'insegna se il giro di 2-3 giorni. Tutti alla ricerca di uno spritz. Ragazzi, cioè, c'è lo spritz vietato, c'è, come dire, c'è il happy hour vietato a Milano. Questa è per un po' Milano sarà come Lugano quando chiude tutto alle 18. Sì, dai, insomma, sì, dai, a Fusconi. Sì. Avremo una vita svizzera per un po' più pulizia. Stiamo diventando la Svizzera, siamo più puliti, ci laviamo di più le mani, meno inquinamento. 18. Poco alla volta, vedi che vince la Svizzera, dai, va bene. Leonardo, vai. Allora, alla fine è toccato anche a noi avere qualcosa di simile a quello che succedeva ai nostri antenati nei secoli scorsi, vale a dire una malattia di origine virale rispetto alla quale non ci sono rimedi risolutivi e nemmeno cure certe. Bisogna mettere in atto tutte le precauzioni possibili e sperare che ci vada bene. Anche se, insomma, per una volta mi sento di non drammatizzare, non moriremo tutti di coronavirus, perché prima di tutto bisogna essere contagiati e ammalarsi, che non è automatico. Poi bisogna che una volta contagiati la malattia si trasformi in polmonite e non solo in una forma influenzale, forse un po' più violenta. Poi bisogna che quella polmonite non si risolva e che degeneri in una forma incurabile. Infine, se si verificano tutte queste condizioni, si può cominciare a considerare il peggiore dei casi. Ma se si verificano tutte queste condizioni messe insieme, vuol dire che un po' di sfiga c'è. Insomma, se si muore di coronavirus, cosa che riguarda circa il 2-3% dei contagiati, vuol dire che si ha una sfiga pazzesca. E allora, se si ha quella sfiga, forse si sarebbe morti anche per altre cause, magari, che so, per un frullatore che ti scoppia in faccia. Certo è che la reazione delle persone è di vario tipo in base al carattere di ciascuno. Ci sono quelli che io assimilerei a mia nonna Rosa, che quando c'era un terremoto rimaneva tranquilla in poltrona, fatalista al 100%. Ci sono quelli che si fanno prendere dal panico e se hanno un colpo di tosse si vedono già in rianimazione al sacco. ci sono quelli che invece sfidano la sorte e invece di andare in giro a fare spenti nella notte oppure accoppiarsi con prostitute senza profilattico, cercano di farsi alitare in faccia da qualcuno in zona Codogno per provare nuove emozioni forti. Io sono una via di mezzo, magari, spero di no, mi ritroverò a fare il pranzo al sacco. Non credo che morirò per il coronavirus, però intanto preparo la borsa qualora dovessi andare in isolamento per un po'. E allora diventa anche un'occasione di vita preparare la corona bag da portare in isolamento, ci permette di capire a cosa teniamo veramente nella vita. Io, se per caso finirò in isolamento, nessuno adesso può sapere come andrà a finire, oltre a computer per scrivere e telefono con tutte le foto, soprattutto di mio figlio, porterò qualche libro e un quaderno che risale a 12 anni fa, quando in occasione del mio 40° compleanno feci scrivere ai miei amici cosa pensavano di me, tutte cose belle, tutte bugie peraltro, comunque gli affetti. E poi in isolamento farò l'elenco di tutte le donne con le quali ci ho provato e che non ci sono mai state con me, così per ricordarmi che nella vita ho avuto anche altri momenti difficili, ma che comunque si possono superare, poi vedrò come va a finire. Poi poco alla volta i contagi caleranno e infine, magari tra un anno o due, o anche meno, chi lo sa, arriverà il vaccino. Di tutta questa storia resterà un brutto ricordo e si tornerà a parlare continuamente di politica. Ecco, se un merito il coronavirus ce l'ha è di averci sottratto per un po' dalle quotidiane polemiche tra maggioranza e opposizione e anche maggioranza che sembra opposizione, ma si sa, come dice il detto, che ubi maior Renzi cessat, almeno per un po'. Bravo, bravo. E poi tutti come a Lugano, bonzu, alle 18 tutto chiuso. No, no, il virus, no. Caro Alino e caro Leo, sono qua unicamente per dire che se il coronavirus portasse tutti ad adottare uno stile di vita sano come quello elvetico, cioè cena tra le 18 e le 18.30 e messa a letto intorno alle 9.30, io sarei solo contenta. Cena alle Leo, negozi cena chiusi alle 18. Ma sì, ma è inutile darsi a dello shopping dopo le 18. Socialità in Svizzera, Lugano, no, ridurre la socialità e bom zu. Che problema. Vabbè, ma c'è? Dopo le 18 c'è già un bel deserto a Lugano Centrum. Comunque io sono reduce da uno splendido weekend in Svizzera. Sì? Là tutto è tranquillo, non c'è alcun tipo di allarme. Bom, zu. Anzi, diciamo che vedono con un certo scetticismo tutto questo allarmismo. Capito, questi italiani, questi terroni, bom, zu. Perché là hanno l'idea che non si ammaleranno mai. C'è un po' di superiorità svizzera in questo. No, vabbè, sono molto hanno molti fisici temprati. C'è l'aria buona, arroganza. No, l'aria sana e tanto Birker Muesli a colazione. Cos'è che è a colazione? Scusate, gente di Bari, gente di Palermo, ascoltate bene, udite bene cosa si prende a colazione. Ne parlerei una volta superata l'emergenza coronavirus. Cos'è dai. Che prende? Il Birker Muesli è una tipica colazione svizzera. Leonardo, prova ad andare al bar Jimmy a chiedere un Birker Muesli. E tra l'altro, Leo, non potresti mai chiederne solo metà, sappilo. Secondo te cos'è? Non ho idea di cosa sia, tipo muesli sarà una cosa muesli, tipo Noro Flakes. Sì, il muesli, il Birker che mi studiate. Scusi. Sarà birra col muesli. Applicatevi. Che birra, birra. Vabbè, comunque, cara Fusconi, per te è tutto come se fosse a casa tua. Ma no, ma sì, ma io sono serena. Adottate il mio stile di vita. Alle 18, mangiate presto, tutti in branda, intorno alle 9.30, 10 meno un quarto, ci si butta nell'onirico. Perché è vera questa cosa, Leonardo, almeno così dice a noi e a suo marito che lei alle 9.30 va in branda. No, ma è un dato di fatto, è vero. Glielo dice quando il marito non c'è, quando è via per lavoro. Io adesso però darei spazio al coronavirus, non a questi dettagli. C'è una sfida Lucchetti anche per concludere la prima ora. Il 28 febbraio si terrà l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione medica in tutta Italia, dato che hanno sospeso le attività didattiche nelle Università della Lombardia. È bello che lo chiedano a Lucchetti invece che, non so, al ministero, alle istituzioni. Ormai ma il Birker Muesli non può rientrare in una sfida Lucchetti. Hai 30 secondi, vediamo. 29, 28, 27, perché c'è il giornale radio. 25, 24. Attenzione, Birker Muesli. Ce l'ha fatta. Caro guarda. Leonardo, ricetta inventata dal nutrizionista svizzero Maximilian Birker Benner. come parte delle sue cure da sanatorio di montagna. E ho capito, ma... E con questo mi congedo, scusate, no, vi ho già dato la soluzione, Leonardo, a tante problematiche. È una ricetta, no, ma non si sa che cosa. Vabbè, la ricetta arriverà nella seconda parte. In un sanatorio. Parte. In un sanatorio. Non può essere troppo gustoso, diciamo. Un sanatorio di montagna, mamma mia. Andiamo al giornale radio, va. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, mi coglie un dubbio, ma l'uomo di 84 anni morto a Bergamo, di cui abbiamo avuto notizia da poco, dove è stato contagiato? Bergamo? Ospedale? Non riesco a capire. Grazie. Ma è allucinante. È allucinante qua la situazione. Come si fa a fare approvvigionamenti di cibo in un paese dove ci sono un supermercato aperto e c'è una fila di 400-500 persone? Buongiorno Milan, io ieri ammetto sono andato a fare la spesa a un certo punto al pomeriggio perché sembrava che il giorno dopo dovessero chiudere i negozi. In casa non avevo niente, cosa dovevo fare se dovevano chiudere i negozi una settimana? Mangiarmi le piastrelle del bagno? Allora ho preferito andare a fare un minimo di spesa. Certo, non ho svuotato gli scaffali, però i miei 2 o 3 chili di pasta li ho comprati. Le piastrelle non era una cattiva idea, Leonardo, non era una cattiva idea, questo da Bergamo sembrava, o più bresciano. Dico che era polemico giustamente con te, con questo ascoltatore. Con me, ma no, se prendi 2 o 3 chili di pasta va bene, cioè nel senso anch'io spesso faccio la spesa 2 o 3 chili di pasta. Ma guarda qua, Leonardo, guarda chi ti ho portato in questa seconda ora, mamma Nicoletta mia, Carbone. Mamma portato. Mia, Leonardo. Ti ho portato Nicoletta. Buongiorno. Carbone. Nicoletta Carbone starà con noi perché questa seconda ora è un po' particolare, nel senso che vogliamo dare delle risposte alle tantissime domande che stanno arrivando. Guarda, Nicoletta, ne stanno arrivando tantissime. Sì, tutti questi appuntamenti che abbiamo seguito a partire da sabato con dirette, poi ieri sera con Gigi Donelli, stamattina con Simone Spezia, ci sono arrivate tantissime domande e cercheremo naturalmente di dare delle risposte con i nostri esperti. Uno esperto è già con noi, il professor Piero Barbanti, ce lo vuoi introdurre, Nicoletta? Buongiorno. Buongiorno, professore neurologo. Buongiorno. Al San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, è psicosi? Ecco, sì. Fenomeni psicogeni di massa vengono definiti. Che cosa succede nel nostro cervello? Le notizie sicuramente sono allarmanti e generano dei comportamenti che, insomma, a volte hanno poco del razionale, sono più sull'irrazionale. Come legge questa situazione un neurologo che si occupa quindi di cervello e di meccanismi che si mettono in moto, stimolati magari da alcuni elementi? Ma io lo vedo con una certa preoccupazione, perché il pericolo è già in atto, ma non è tanto il pericolo coronavirus, è il pericolo contagio sociale. E il meccanismo è molto semplice: la specie umana è dotata di neuroni, chiamati neuroni specchio, che copiano il comportamento. E quindi vedere persone che vanno ad accaparrarsi a mucchine o cose varie nelle farmacie o fanno man bassa nei supermercati è un comportamento contagioso anche nelle persone più razionali. Attenzione, perché sono descritte nella letteratura tante volte, beh, basti pensare al tarantismo del 1400, dei comportamenti di massa per cui persone perfettamente sane cominciano ad avvertire sintomi dietro il condizionamento psicologico. Siamo proprio così, malattie psicogene di massa. E questo cosa può comportare? Da un lato sovraccarico di chiamate, i numeri verdi, che sono in realtà numeri piuttosto delicati, dall'altro la perdita di quella razionalità che deve guidare il nostro comportamento. E è del tutto evidente che quello che sta accadendo può essere visto in 2 maniere. La prima maniera è quella logica, cioè occorre porre delle frontiere alla diffusione di una infezione quando l'infezione non è ancora una pandemia. E questa è la cosa che ci lascia tranquilli. Ma attenzione che tutte, e non parlo ovviamente di questa trasmissione che ha anche un tono un po' ironico, dissacrante in generale, ma le grandi dirette sull'aggiornamento del coronavirus sembrano un film thriller, ed ecco che alzano, unitamente alle immagini che vengono magari, non so, dalla Cina, anche da qualche comune italiano, di strade deserte, gente scafandrata, elevano in noi la sensazione di vivere un incubo. Interessante, c'è il ruolo dell'informazione, anche noi, sì. Anche noi insomma dobbiamo. Tra l'altro ci ha raggiunto Nicoletta anche un altro esperto, anche perché so che Leonardo Manera aveva una domanda, la prima domanda per lui, ce lo vuoi presentare? Sì, volentieri, è il professor Giovanni Di Perri, che è professore di malattie infettive all'Università di Torino ed è consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Leonardo, è tutto tuo allora. Buongiorno professor Di Perri, intanto. Buongiorno. Ma io anni fa ruppi la milza, me ne hanno lasciata solo un piccolo pezzetto di milza e volevo chiedere se nel caso in cui dovessi contrarre il virus, il non avere la milza comporterebbe per me possibilità maggiore di aggravamento. Ma guardi, le dico, non ci sono dati che possono illuminare in proposito. Per ragionevole inferenza direi di no. Il tipo di immunità coinvolto è diverso, lei potrebbe in linea teorica essere più a rischio per altre infezioni come quella da Streptococcus pneumoniae, come eventualmente la da meningococco, ma le rimane un pezzo di milza, si può vaccinare e direi che in riferimento a questo nuovo coronavirus non ho elementi salienti per lei di preoccupazione. Ecco. Quindi gioca la partita come tutti noi. Non so se l'ha tranquillizzato perché Manera non si fa tranquillizzare mai, però in teoria l'ha tranquillizzato. Però ecco. Noi abbiamo anche il professor Barbanti che può tranquillizzare il nostro Manera. Sì, che da giorni le dico, professor Barbanti dice io vivo barricato, nel dubbio vivo barricato in casa. Professor Barbanti. Noi abbiamo due possibilità, quello di ascoltare la parola, leggere la cronaca, ricordiamoci che però la cronaca va filtrata dalla nostra difesa psicologica. La seconda è quello di ascoltare le voci mediche, che sono sempre molto rassicuranti e dovrebbero avere assolutamente, per par condicio, una che viene rispettata per la verità in moltissime trasmissioni, che sono il contraltare, cioè questo è un fenomeno che va studiato, bisogna stare attenti, ma che non è sfuggito, non è la peste. E quindi il messaggio è dimenticare la pancia, utilizzare la testa e seguire le norme che sono molto semplici e molto tranquillizzanti. Quindi Nicoletta, rimangono tantissime domande. Lo so, professor Barbanti, grazie, ci sentiremo presto, immagino, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata. Allora, professor Di Perri, adesso è nostro perché, come puoi immaginare, sono tantissime le domande. Guarda, ne leggo io un paio dai messaggi, Nicoletta. Intanto, chi ha fatto il vaccino contro influenza e polmonite è più tranquillo, professor Di Perri, chiede un ascoltatore? Ma diciamo che ha delle probabilità ragionevoli in meno di doversi presentare a visita, nel senso che intanto ha ridotto la possibilità di ammalarsi di altre cause che generano una malattia effettivamente molto simile, soprattutto ovviamente l'influenza. E poi comunque tenere, questo vuol dire che l'integrità delle vie aeree di questa persona è maggiormente protetta e che quindi nel caso di infezione oppone un sistema che strutturalmente anche nelle sue capacità di rispondere da un punto di vista immunitario è verosimilmente in buone condizioni. Quindi sì, certo. Sì, va bene, e questo lo chiedeva anche Rita e un'altra ascoltatrice, sì. Insomma il tema era simile. Professore, allora sappiamo che è un virus respiratorio che si diffonde attraverso il contatto stretto, sì. Ma qual è la definizione di contatto stretto? Ce la vuole dire? Ma allora, dobbiamo dividere, sono due semplici capitoli, uno è quello della condivisione dell'aria, cioè effettivamente noi quando parliamo, quando respiriamo, emettiamo particelle di varie dimensioni col nostro vapore acqueo, un po' sputicchiamo anche quando parliamo, le particelle più piccole, quelle che in termini proprio di dimensioni sono fra i 2 e i 5 micron, sono quelle che veicolano le infezioni, dalla tubercolosi alle virosi respiratorie come questa, all'influenza e quant'altro. Perché? Perché sono talmente piccole che possono effettivamente galleggiare in aria per un 20-30 minuti ed essere anche per esempio risospese, se uno apre una finestra, una porta, c'è un soffio diciamo di vento, un flusso d'aria che le può. Diciamo, queste sono, quindi galleggiano in aria, noi possiamo inspirarle con la nostra normale attività diciamo di respiro all'interno di una stanza che magari condividiamo con un malato, queste sono talmente piccole che raggiungono le basse vie respiratorie, dove sappiamo il coronavirus in particolare si trova bene nell'aderire alle cellule epiteliali del polmone profondo e nel replicarsi in questa stessa. Questo è. E poi ci sono modalità cosiddette complementari che riguardano, per esempio, una virosi dei bambini, ma non solo dei bambini, bambini in particolare dei neonati, che è il virus respiratorio sincitiale. Quello lo si acquisisce forse soprattutto toccando con delle mani infette che hanno toccato secrezioni e quant'altro la nostra congiuntiva, il orifizio, ecco, delle occhi, narici, naso, eccetera. Bocca. Esattamente. Però, esattamente. Professor Di Perri, faccia così, perché dobbiamo dare le informazioni del traffico, siamo già in ritardo di un paio di minuti. Riprendiamo tra un attimo, perché guardi che le domande sono tantissime e si accumulano. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao, io lavoro nei supermercati. Comunque, niente, come dobbiamo fare il contatto con tante persone lavorando vicino alle casse? Non siamo tutelati né dalle mascherine e né da persone che portano le mascherine qui a provincia di Modena. Mi sapete dire qualcosa? Grazie. Cosa ecco, dobbiamo fare? Questo è un nostro ascoltatore che lavora nei supermercati e evidentemente ha contatto con tante persone, ieri soprattutto a Milano, visto che la gente li ha assaltati i supermercati da Benedetto. Allora, professor Giovanni Di Perri, cosa possiamo rispondere all'ascoltatore? Ma qui entrano in gioco delle regole di vita collettiva che i provvedimenti del governo direttamente e indirettamente hanno sollecitato. Cioè, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso tutta una serie di attività, diciamo, di congregazione. Non si può chiudere tutto, gli ospedali devono andare avanti, gli esercizi, molti esercizi devono andare avanti, eccetera. Diciamo che chi non sta bene stia a casa, cerchiamo di farsi aiutare, di mandare in giro le persone della nostra famiglia che si sentono bene, eccetera, di non darsi, diciamo, troppa ansia da questo punto di vista. Ricordiamo che il rischio di un'infezione, che nell'80% dei casi determina diciamo delle forme banali, autorisolventesi, che le persone in particolare a rischio sono quelle più in là con l'età e magari portatrici di cronicità, sì, tipo per esempio cardiovascolare, quindi la broncopneumopatia cronica, diabete e quant'altro. Allora, qui viene in gioco la famiglia, il valore della famiglia, l'organizzazione, il buon senso della famiglia. Sì, stare insieme, esatto, nella collettività. Sì, sì. In guarda, Nicoletta, ci sono tantissime persone, allora, le cui domande sono simili sulla questione della vita del virus fuori dal corpo umano, che poi vuol dire, appunto, c'è gente che ci chiede: c'è sottovento a Codogno e io abito a 40 chilometri, non è che il vento me lo porta qui? Insomma, questo virus quanto vive fuori dagli organismi, professore? Allora, ci sono degli studi, sono stati fatti fra l'altro sul coronavirus, quello del raffreddore comune, non su questo, sia chiaro, anche se poi potrebbero anche essere molto simili. In condizioni più o meno controllate, con una pellicola d'acqua, con, diciamo, con cellule, quindi una secrezione, un escreato abbondante, per dirla popolare, lo sputo, se vogliamo, che sia abbastanza in un regime di umidità, di temperatura intorno ai 4 gradi, al di sopra del 50% umidità, può stare in giro anche per qualche giorno. Però quello non è di per sé infettante, quello deve essere nebulizzato per raggiungere le nostre vie aeree. Oppure, se riprendiamo un'ipotetica complementare via di trasmissione per, diciamo, contatto con mucose e orifizi anali e quant'altro, uno deve spiaccicarsi il suo dito sopra e poi portarselo presso le proprie... Insomma, bisogna essere bravi, insomma, sì, lei, esatto, mi sta dicendo, professore. Esatto, un conto è la resistenza del virus stabilita a livello sperimentale con l'isolamento in coltura, un conto è la sua, diciamo, trasferire queste informazioni sulla trasmissibilità, e non è assolutamente detto. Parliamo anche della velocità con cui si diffonde il virus. I nuovi casi fanno, si è sempre parlato di una contagiosità, voi utilizzate dei numeri 2.2, 2.6, lei ce li spiegherà, ma sì, adesso tutti questi casi nel nord Italia spingono tante persone a domandarsi se il virus abbia un po' accelerato, non stia correndo, sia diventato più contagioso. Professore. Allora, da dire due o tre cose. Evidentemente questa infezione è molto contagiosa se confrontata a ciò che abbiamo misurato nel recente passato, e quindi

chi l'ha infettata, certo, lei non sa nemmeno chi è, ed è il settimo, ottavo passaggio dopo magari un'iniziale importazione cinese. Quindi ormai la discriminante cinese è uno dei fattori, ma non è l'unico. Non è l'unico. Ma professore, le persone che hanno viaggiato nelle aree, adesso abbiamo detto Codogno, in questa zona rossa, in tempi non sospetti, prima che venissero messe in quarantena, e penso viaggiato in auto, in treno, in macchina, mi concentro di più sul treno, dove ad esempio nei regionali salgono e scendono le persone, sto pensando nel tratto Milano-Mantova, Milano-Verona, insomma, ci sono delle indicazioni per queste persone? Potrebbero aver avuto dei contatti? O... diciamo che esatto, gli indiziati maggiori sono i contatti di casi accertati. Da lì in giù ci sono tutta una serie di ipotesi che si possono fare, nel senso che effettivamente se io ho una sindrome respiratoria acuta e mi visita il mio medico, io glielo devo dire: guardi, io per lavoro sono stato un paio di volte in quelle zone, sono andato nei bar, ho mangiato nel ristorante, sono arrivato con un treno regionale, in circostanze un po' quello che è stato un po' il suo viaggio. E poi sarà un po' il medico un po' a valutare a quel punto. Ma lei ecco, come lo valuta? Sa cos'è che stiamo facendo e non facevamo prima? Questa è una cosa molto utile. Stiamo spendendo in più nella diagnostica delle infezioni banali. Cioè, quello che è c'è uno strumento molecolare, si chiama Film Array, e ci permette la diagnosi in poco tempo di 8 infezioni virali diverse e 4 infezioni batteriche. Quando io riesco a dare un nome a un'infezione respiratoria banale, non dico che escludo il coronavirus, però intanto ho già un'etichetta da dare, quindi verosimilmente mi si riducono le probabilità che si tratti di un coronavirus. Se poi ritengo, vista la gravità, di dover lo stesso testare per il coronavirus, perché non è escludibile, ci possa essere anche un'infezione contemporanea da più agenti, magari lo faccio, però intanto stiamo facendo questo, e le dico che non ho mai dato diciamo tante etichette a infezioni peraltro ignote, perché di solito banali, come in questo periodo, ed è molto interessante. Ci servirà per altre cose, ci servirà in futuro per dar meno antibiotici, perché per esempio la maggior parte si tratta di infezioni virali, quindi tutto lascia una traccia, ecco, voglio dire. Allora, noi ci fermiamo per le informazioni sulla borsa, ma poi riprendiamo fino alle 11 qui con Nicoletta Carboni Studio, con il professor Giovanni Di Perri, con le vostre domande, se volete, al 349-238-6666, se volete chiamarci all'800-24-0024. Intanto, borsa! Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, sono Stefano da Genova. Volevo sapere, fare questa domanda, se quando viene dichiarata guarita una persona è immunizzata o potrebbe contrarre nuovamente il coronavirus? Grazie. Questa è una domanda che ci fanno in varie forme tantissime persone. Professor Giovanni Di Perri, che rispondiamo? Rispondiamo che ancora non lo sappiamo, che è interessantissima soprattutto allo scopo di allestire un vaccino, cioè i vaccini più facili da sviluppare sono quelli contro infezioni che lasciano per via naturale un'immunità protettiva permanente, pensi al morbillo, no? Il morbillo chi lo ha fatto una volta sola. Poi, allora, da questo punto di vista effettivamente è molto interessante, come lo è e lo rimane l'immunità all'influenza, eccetera, quindi ci interessa molto, è una domanda molto intelligente, e fra l'altro ci può stimare magari se questa infezione circolerà e si ripeteranno fenomeni del genere, ci potrà dare una stima di quanto la popolazione è protetta spontaneamente. Le persone sono curiose, per esempio un ascoltatore dice: io abito in Abruzzo, ecco, devo mettermi la mascherina, devo sottopormi al tampone, devo chiudermi in casa, cosa bisogna fare, per esempio in una regione dove il coronavirus al momento non c'è? No, ma professore. No, capisco che insomma, ma assolutamente ha nessun titolo, nel senso che la nostra vita non deve essere troppo modificata, in questo momento tutto ciò che è stato fatto e che non ha precedenti, mi rendo conto, almeno non li ha nella mia vita, devo dire, serve soprattutto a capire che dimensioni prenderà il fenomeno. Ma diciamo che quello che si rischia, ripeto, è nell'80% dei casi una forma lieve, che non deve essere nemmeno... E questo, diciamo, è importante. Questo è importante, esatto, sottolinearlo. Esatto. No, no, esatto, non è nemmeno degna di ricovero. Ci sono poi un 15% circa di forme più impegnative con insufficienza respiratoria e un 5% di forme critiche. Ecco, questo ci permette anche di avere una stima di quel che succede, cioè se noi abbiamo 5 pazienti molto gravi abbiamo almeno altre 100 infezioni. Sì, sì. Questo quindi ci dà anche un po' un'idea della magnitudo del problema. Però nell'80% dei casi c'è una lieve forma influenzale. Sì, assolutamente, ecco, assolutamente. Sottolineiamo, assolutamente, no, bisogna, sennò... è vero, sempre vedere da in che percentuale uno cade, ma sì, auguriamoci, certo, cadere fa nell'85. Notizia, fa notizia, vero? Quel 5%, però noi guardiamo anche poi, l'85. Ma professore, lo ripetiamo, indicazioni, sì, istruzioni per l'uso. In caso di sintomi respiratori, la febbre, ho paura di aver contratto il nuovo coronavirus, mi viene in mente che, sì, ho viaggiato, eccetera. Che cosa devo fare e che cosa mi può succedere? Ma allora, dunque, se uno è abituato a consultare il proprio medico di base, si fida e ha un rapporto, insomma, lo consulta, gli chiede consiglio, eccetera. Se no c'è un numero verde, se no conoscerà qualcuno che conosce un medico bravo, mm-hmm, e in qualche modo si informa. Dopodiché questo gli dirà, gli chiederà quattro cose, ma insomma se è di una qualche attenzione, perché in effetti è per la gravità, diciamo, perché comincia ad avere il respiro corto, la febbre alta da 4 giorni, insomma un qualcosa del genere, verranno presi dei provvedimenti, lo, sì, visiteranno ed eventualmente provvederanno a fare innanzitutto quella diagnostica convenzionale di cui vi dicevo, quindi influenza A, influenza B, il rinovirus, che è un test non coronavirus, che esiste da tempo, automatizzato, si fa brevemente e intanto magari diamo già un'etichetta a questa infezione respiratoria. Dovessero rimanere dubbi, problemi, essere questo test negativo, beh effettivamente a questo punto si procede a quello che è il test del coronavirus, che in questo momento è ancora un qualcosa di para artigianale, perché insomma è stato sviluppato in tutto il mondo da meno di 3 settimane, però credo che nel giro di poco tempo, però, anche per si automatizzerà, ecco, da questo punto. Professor Di Perri, c'è una, sì, notizia molto importante battuta in questo momento dall'ANSA, lei ci può aiutare, sì, a capire, riguarda Vo Euganeo in provincia, sì, di Padova. Sì. Secondo l'ANSA potrebbe esserci una svolta nell'individuazione del possibile paziente zero che ha diffuso il coronavirus, sì, a Vo. Un agricoltore, sì, sessantenne di Albettone, frequentatore dei bar di Vo, era stato a Codogno e in altri centri dell'Odigiano focolaio del virus in Lombardia. Questo apprende l'ANSA dal sindaco di Vo, Giuliano Martini. Sì, sì, sì, sì. E questa, beh, persona ha dei sintomi, quindi potrebbe essere stato questo agricoltore che è stato a Codogno, poi è un frequentatore di bar di Vo e quindi da Codogno avrebbe portato a Vo. Sì. Ah, boh, questo... questo agricoltore ha i sintomi adesso, sì, questo, sì, lei mi sta dicendo, sì, beh, sì, se ce li ha adesso non mi ora convince tosse moltissimo. E sintomi influenzali ora. Non mi convince moltissimo, nel senso mi aspetterei un indiziato che dice ma 15 giorni fa ho avuto i sintomi, vero, e segni, certo, sì, perché, sì, il tempo parla, sì, comunque, sì, ora faranno il tampone della catena, ma, sì, insomma, sì, certo, sì, sì, sì. Beh, però interessante. E poi leggendo, sai, se uno pensa, sono passato da Codogno e poi mi sono infettato, ecco, il professor, sì, Di Perri ci ha ben spiegato un po', insomma, è vero, no, che però si c'è trasmette un contatto tra le due zone, perché, sì, nessuno ha capito, sì, come, sì, mai in, sì, questi due luoghi. E a Torino che sono come distanti siete messi, anche professore? È sempre parte tutto da Codogno? Sì, sì, per il momento sì, abbiamo 2 estensioni indipendenti dell'epidemia lombarda. Un paziente che sta bene, stanno tutti bene, ecco. Questo è importante. Sì, che è un pendolare, lavora nel milanese. E poi 2, un padre e una madre con figlia negativa che hanno frequentato una famiglia di Codogno. Quindi, però quindi, ecco, sì, i tre casi non hanno nessuna relazione, certo, diciamo, i due gruppi di casi. Leonardo, eccoci qua. Qui... Sì. Sì, era sparita l'app, ma adesso mi sono ricollegato. Ma no, ero curioso di sapere, riguardo al paziente 1, il paziente di Codogno, che è tuttora in gravi, sì, condizioni, lui è una persona giovane, in buona salute, sì, e che però ha avuto questa forma grave. Può dipendere dalla concentrazione di virus con la quale è entrato in contatto? potrebbe anche dipendere, cioè la misura di quello che noi chiamiamo l'inoculo, cioè quanto agente infettante ti incontri per la prima volta, quanto ti infetti. Questo di solito sicuramente condiziona la probabilità che ci si infetti, però potrebbe anche in linea teorica condizionare la gravità. E la cosa curiosa, se vogliamo, qualcuno di voi ha sentito nominare la famosa malattia del bacio, no? La mononucleosi. Sì. Sì. La mononucleosi è un'infezione che si manifesta, inizia a dare manifestazioni se la si acquisisce in età adolescenziale o giovane adulta. La cosiddetta malattia del bacio, questo febbrone, questi linfonodi, queste ghiandole intorno al collo, malattia che si protrae, che fa soffrire fra l'altro. In zone più diciamo a tenore igienico ridotto, dove questo virus passa in età molto più precoci, in bambini che hanno ancora una certa immaturità immunitaria, fisiologica peraltro, l'infezione passa ma la malattia non si presenta, non si realizza, ecco perché è una malattia che richiede una certa competenza immunitaria, eccetera. Il fatto che questa malattia da coronavirus sembra risparmi sostanzialmente i bambini suggerisce che ci sia una patogenesi, diciamo, immunitaria, nel senso che sia la nostra, l'aggressione del nostro sistema di difesa alle cellule infettate a livello polmonare a determinare questa polmonite, noi chiamiamo alveolo interstiziopatia, che porta alla riduzione degli scambi e quindi in ultima analisi al rischio di insufficienza respiratoria. Allora, diciamo che purtroppo qualche giovane sano, come lei ha suggerito, si ammala, però poi nei grandi numeri si ammala soprattutto chi è vecchio e chi è infatti, già malato. Infatti, guarda, professor Di Pere, ci sono molte persone ovviamente che dicono, non so, mia moglie deve fare una chemioterapia, un altro ascoltatore dice un mio amico è sieropositivo in cura con antiretrovirali. Chiaramente queste persone sono già debilitate per altre patologie e temo che siano più esposte, no? Ma le dico, ovviamente sì, in particolare chi è in cura, voglio dire, per chemioterapia è una persona da tenere particolarmente riguardata e isolata, direi questo senz'altro. Le chemioterapie tendono a dare dei transitori cali dell'immunità cellulare che qui qualcosa c'entra. Direi che per la sieropositività per HIV non ho elementi per dire che si tratti di un paziente più vulnerabile di altri. I soggetti in terapia per infezione HIV nella stragrande maggioranza dei casi sono assimilabili alla popolazione generale come competenza di difesa, ecco. Sì. Salvo qualche piccola eccezione, ma insomma non stiamo qui a dettagliare. Sai che Nicoletta, ci sono moltissimi messaggi, è inutile negare che c'è anche questo aspetto, tantissime persone che dicono ma scusate, ma i famosi centri massaggi cinesi insomma è lì che succede lì? Perché sono diffusi, è inutile negarlo, e i controlli dai sono pressoché nulli, no? Professore, lei che ne pensa? Andiamo al centro massaggi. Centro massaggi, diciamo che se ci si va adesso secondo me non dovrebbero esserci particolari problemi. Forse, vede, io inquadrerei la situazione in un qualcosa di molto più normale. Ora beh, certamente se un cinese viene da Wuhan è infetto e va a fare i massaggi appena arrivato, insomma il rischio in teoria c'è, ecco, poi bisogna vedere da che regione della Cina viene, eccetera. Però secondo me noi abbiamo circa 300.000 cinesi ufficialmente presenti in Italia, in particolare ovviamente in regioni come Lombardia, Veneto, diciamo Toscana, esatto, il Piemonte è sesta, settima posizione. Allora, questi qua, è vero la storia del Capodanno cinese, ma questi qua che lavorano da noi seguono il nostro calendario, quindi questi hanno iniziato a tornare in Italia verso il 5-6 gennaio. Il nostro allarme è scattato dopo la metà di gennaio, quindi verosimilmente questa infezione, ripeto, molto spesso banale, quindi che non la si nota se non c'è un allarme in corso, può essere tranquillamente entrata nei primi 10-15 giorni di gennaio, si è diffusa pian pianino, magari ha già causato qualche decesso in pazienti estremamente vulnerabili, che saranno magari morti in una rianimazione con 83 anni, broncopneumopatia cronica, diabete scompensato, non è stato eccetera. Certo cercato coronavirus, esatto. Quindi esatto, non è un caso di Ebola che il paziente sanguina e ci si chiede il perché, quindi è un qualcosa che soprattutto in questa stagione circola facilmente ed è molto simile, esatto. Infatti dobbiamo, febbraio, il mese della febbre. Sì, dobbiamo fare il traffico ancora, gli ultimi aggiornamenti e poi le ultime domande per il professor Di Pere. Uno, nessuno, 100 Milan. Professor Di Perri, un ascoltatore chiede se sia possibile fare una prevenzione tramite l'aerosol. No. Stili di vita sani, riposare, quello che possiamo opporre a qualsiasi insulto di tipo infettivo, non solo al coronavirus. E se le dicessi lavaggi nasali? Ma quello in teoria, un'igiene anche della bocca e delle cavità nasali ha senso, ecco, voglio dire, ci sono tutta una serie di presidi che non sono ai vertici dell'attenzione, diciamo, medica, preventiva, eccetera, ma lei consideri certamente i lavaggi nasali, certamente per esempio anche l'uso dei lisati batterici, laddove ovviamente il soggetto è già stato vaccinato per l'influenza, per lo pneumococco, eccetera, sono tutti piccoli tasselli di un mosaico che alla fine ognuno dà il suo piccolo o grande contributo e francamente fanno parte di un atteggiamento complessivo, diciamo, di tutela della propria salute. Ecco. Professore, vitamine, sali minerali, c'è qualche evidenza, si suggeriscono, no, ognuno direi, fa come vuole, ma sì, alcuni hanno un po' di letteratura, lei che dice? La sana alimentazione, poi laddove esiste un deficit specifico, la vitamina D, la supplementazione può essere utile per chi vive soprattutto in zone urbane, l'esposizione al sole e quant'altro. Però ecco, il tipo di alimentazione nostra mediamente è abbastanza esaustiva in termini di copertura di vitamine e sali minerali. Ecco. Devo dire che insomma le domande sono tantissime, arriva anche una che non è una domanda, di fate i complimenti al professore che tra tutti quelli sentiti è il più chiaro e equilibrato in questi giorni. Bravo, vabbè, non a caso viene da Torino. Ha passato l'esame, professor Di Perri, ha passato l'esame. No, devo dire, ecco, gli animali domestici possono trasmettere il virus, chiede un ascoltatore, che poi fa il pari del famoso mistero di da dove provenga questo virus, se ci sia stato un salto di specie dagli animali selvati. Direi, i nostri animali al momento non ho poveretti, almeno loro salviamo, lasciateli stare. No, nemmeno il mio povero Labrador non l'ho accusato di nulla, insomma non lo metto lì. Questa, se mi permettete, è una storia interessante, perché vedete, dopo la SARS i cinesi si sono messi a studiare questi coronavirus, perché si sono accorti che evidentemente è un virus che salta la specie facilmente, e se lo sono andati a cercare nel pipistrello, nel pangolino, nello zibetto, nel visone, nel serpente, eccetera, e alla fine che cosa viene fuori? Se analizziamo tutto ciò che ci ha dato fastidio negli ultimi 20 anni, la SARS è un ibrido di un virus che viene in primis dal pipistrello, i pipistrelli quelli cosiddetti con la bocca a ferro di cavallo, e poi abbiamo la sindrome respiratoria dell'Arabia Saudita, che ha il dromedario, ma il dromedario ha ricevuto un ibrido dal pipistrello. In questo nuovo coronavirus ha un progenitore nel pipistrello, forse c'è un ospite intermedio, potrebbe essere uno di questi piccoli animaletti, fu lo zibetto per la SARS, questo potrebbe essere insomma il visone, il pangolino e quant'altro. Se andiamo a disturbare Ebola, che è tutt'altra cosa, non è certo un coronavirus, però Ebola riconosce come serbatoio i pipistrelli della frutta. Allora forse in una umanità che riduce l'emissione di CO2, che vieta di fumare nelle aree pubbliche, che consiglia su come nutrirsi, che fa mettere il casco a chi va in moto, forse come, diciamo, iniziativa collettiva mondiale, se lasciassimo stare i pipistrelli sarebbe meglio. Batman, sempre. Ricordiamo Nicoletta, tu non lo sai che a Manera nidifica un pipistrello nel balcone di casa. Da tempo. Devo sempre ripulire il balcone. Senti, gli hai dato un nome? Gli hai dato un nome o siete rimasti un po'? No, lo state terrorizzando, lui è già terrorizzato di suo Leonardo. Ma ci può dire il professore invece cos'è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare? Ecco. Ma la cosa potenzialmente più dannosa. Di andare in questo momento nella provincia di Hubei in Cina. Ecco, questo è. Questa è abbastanza facile per molti. È proprio. Evitiamo questo come buon senso. Ci sentiamo malati, ci misuriamo la febbre, abbiamo un imbarazzo, diciamo, alle vie respiratorie. Non mettiamoci in coda ai pronti soccorsi. Sì. Parliamo chiunque sia, o se è il nostro medico di base, perché ci fidiamo, lo chiamiamo. Se è un medico, un amico, un qualcosa, se no è il numero verde, se no si chiama. Sì. non mettiamoci in coda ai pronti. Questo si sa cosa è successo però, professore, io lo so perché una cara amica mi ha detto la tosse eccetera, ha chiamato il medico di base e ha detto no, devi passare attraverso il numero verde. Cioè, ci sono anche medici che evidentemente non lo so se per via precauzionale, anche un po' intimoriti, dicono no, passa attraverso le vie istituzionali, probabilmente. Ma sì, è tosse insomma. Un consiglio diamocelo, come ti senti quando hai fatto gli ultimi esami, cioè parliamoci un attimo. Cioè, voglio dire, ti curi per cosa? Hai già malattie in atto? Sei iperteso? Cioè, voglio dire, un minimo di inquadramento lo si fa al telefono. Poi, se diciamo, esistono gli elementi per procedere, beh, si andrà anche nelle malattie infettive a farsi visitare e eventualmente poi a fare i test del caso. Però dico, non mettiamoci in coda al pronto soccorso, innanzitutto perché si aspetta un sacco di tempo in questa fase. E poi perché nel caso effettivamente facciamo dei danni. Un toro. Esatto. Senta professore, ricorre spesso la domanda alla febbre, quando parlate di febbre, rapidissimamente, parlate di una febbre importante o due lineette di febbre e di che tipo di temperatura parliamo? 37,2? Tutto è proporzionale. Tutto è proporzionale. I casi gravi descritti in Cina e quelli che stiamo vedendo hanno una febbre effettivamente persistente, che è una febbre che dura diversi giorni. Poi c'è chi evolve verso una spontanea guarigione, come quello che avviene nella maggior parte dei casi, chi purtroppo va verso l'insufficienza respiratoria e poi insomma. Che può anche evolvere. Professor Giovanni Di Perri è stato chiarissimo, ha risposto a tante domande, altrettante ce ne sarebbero anche tipo mangiare peperoncino piccante aiuta. È arrivata qualcosa. Anche questa, Leonardo, è arrivata anche questa. Qualcosa aiuterà, noi continueremo con uno spazio dedicato proprio alle vostre domande per trovare risposta anche con gli infettivologi. Per informare senza terrorizzare, no? Va bene, Leonardo, ciao. Tu cosa fai domani? Vieni qui, stai barricato? Non so niente. Vediamo come evolve la situazione. Nel frattempo ho deciso che il pipistrello che nidifica qui lo chiamerò Corona. Corona, va bene. Ciao Leo, grazie Nicoletta. Ciao. Uno, nessuno.